America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. A clean sweep for Rick Santorum on this important day. He wins in Missouri, he wins in Minnesota, and now, you heard it first here on CNN, he wins in Colorado. Grande emozione, ieri notte, grande nottata, di nuovo, nottata quasi in bianco per noi che seguiamo queste elezioni americane, ma c'è stata una grossa novità, una tripletta, una sorpresa di Santorum. Il primo risultato al di sopra del 50% del voto, una grande performance, un grande ritorno di Santorum. Ladies and gentlemen, I don't stand here to claim to be the conservative alternative to Mitt Romney. I stand here to be the conservative alternative to Barack Obama. Nel suo discorso della vittoria, questo candidato, ex senatore della Pennsylvania, che ha vinto anche l'Iowa, si è buttato direttamente contro Barack Obama, ha cercato di porsi, diciamo, su un livello presidenziale, e devo dire che questa è un po' una svolta. Sono tre stati importanti, non importantissimi, sono tre stati in prevalenza evangelici. Rick Santorum è molto religioso, dunque per lui si trattava di combattere in un terreno davvero amico. Guardando in avanti, forse per lui sarà un po' più difficile, sarà un po' più facile per Mitt Romney, che esce comunque con un occhio nero da questo confronto. Esce con un occhio nero anche perché, diciamolo, se l'è cercata. Quel commento che fece qualche giorno fa, quando disse "non mi preoccupo dei poveri", forse fu un commento fuori contesto, però ha lasciato il segno, la gente continuava a ripeterlo, ha dimostrato una volta di più Mitt Romney di non essere in completa sintonia con l'elettorato repubblicano e direi con l'elettorato americano in genere. Ecco che in questo conflitto fra lui e Gingrich, a quel punto Gingrich ha cercato di tornare all'attacco, si è infilato alla grande Santorum. Da domani Rick Santorum riuscirà a ottenere i fondi. This was a good night for Rick Santorum. Want to congratulate Senator Santorum. Wish him the very best. We'll keep on campaigning down the road, but I expect to become our nominee with your help. Romney è stato un galantuomo, un gentiluomo, si è congratulato con Santorum per la sua vittoria, ma guarda già in avanti, guarda l'Arizona, guarda il Michigan, soprattutto al Michigan, dove suo padre fu governatore, uno stato importante dove dovrebbe affermarsi con facilità. Gingrich è addirittura già in Ohio, perché si sta preparando anche lui al Super Tuesday, quando ci saranno 11 stati importanti, tra cui per esempio la Georgia, che è lo stato tra l'altro di Gingrich. Ecco, il Super Tuesday potrebbe presentare qualche difficoltà in più per Santorum. Diciamo che l'elemento politico di questa situazione è che il Partito Repubblicano continua ad esprimere una certa confusione, un fatto questo che naturalmente avvantaggia Barack Obama. Barack Obama tra l'altro si rafforza perché l'occupazione è andata bene, l'economia sembra riprendersi, la borsa sta andando bene, e il fatto che non ci sia un vero candidato che emerge dall'altra parte naturalmente lo avvantaggia. Vi dicevo, due appuntamenti politici importanti, i primi, quello di Arizona, Michigan e Super Tuesday in arrivo all'inizio di marzo, ma immediatamente ci sarà il CPAC, che è una convention repubblicana, comincerà giovedì, durerà fino a sabato, ci saranno Sarah Palin fra gli oratori e altri notabili del partito. Cosa succederà? Si prenderà atto che Santorum in questo momento sembra il cavallo vincente, sicuramente Sarah Palin sarà provocatoria, si schiererà contro Mitt Romney, che continua a non riuscire a dispirare. Però il vantaggio di Mitt Romney resta chiarissimo sul piano dell'organizzazione, questo ve l'ho sempre detto, e anche sul piano dei delegati. In questo momento ha 106 delegati contro i 37 di Gingrich, i 22 di Santorum e i 19 di Paul, questo dopo le elezioni di ieri. Dunque grande vantaggio per Romney. Certo, ci vogliono 1146 delegati per vincere, però Romney continua a promettere di essere lui quello sulla buona strada. Altra notizia molto importante, il presidente del Consiglio Mario Monti arriva a Washington questa sera, arriverà fra poche ore alla base aerea di Andrews, da lì si trasferirà in ambasciata d'Italia dove passerà la notte. Domani mattina l'incontro con il presidente Barack Obama, dopodiché una puntata al Peterson Institute for International Economics dove terrà un incontro con un gruppo di economisti. Ci sarà nel pubblico, fra l'altro, anche Sergio Marchionne. Questa visita di Monti è molto importante, naturalmente. Beh, arrivare in America, ristabilire un contatto con gli Stati Uniti e soprattutto identificare una strategia sul come poter andare avanti in un così in una relazione transatlantica che si è fatta difficile con questa crisi economica. Da una parte la Germania che tira da una parte direi molto diversa da quella dove vorrebbero invece vedersi muovere l'Europa gli Stati Uniti, gli Stati Uniti che invece per loro conto continuano a fare politiche espansive sul piano monetario e su quello fiscale per cercare di sostenere la crescita, una tesi questa che la Germania per ora rifiuta. E beh, è certo che la rifiuta, la Germania non ha davvero un problema, la Germania cresce, produce occupati, in fondo alla Germania importa poco poi se l'Italia o la Spagna vadano non così bene, e quindi chiede, esige ed ottiene delle politiche di austerità. Perché questo viaggio di Monti è importante? Perché forse con il dialogo americano si riuscirà a convincere la Germania a essere leggermente più flessibile e a capire anche quelli che sono i problemi di un paese come l'Italia, che al di là dei problemi che incontra in questo momento sul piano del debito sovrano sta cominciando a soffrire anche sul piano delle aziende. Le aziende italiane hanno più difficoltà ad esportare, si scontrano con le aziende tedesche. Perché? Beh, perché quelle tedesche riescono ad ottenere tassi a buon mercato, quelle italiane faticano. Un'agenda piuttosto fitta dunque quella di Mario Monti a Washington. Il giorno dopo, venerdì, passerà per New York, io lo seguirò nella capitale americana, lo seguirò naturalmente quando tornerà qui a New York, dove ci sarà un incontro con Wall Street, e quella tappa sarà altrettanto importante perché si cercherà di convincere gli investitori che i piani di austerità del governo italiano funzionano, stanno dando dei risultati, che vale la pena di cominciare a sottoscrivere il nostro debito. Nel momento in cui il debito italiano entrerà in zona di sicurezza, ecco, si potrà pensare anche al resto, dopodiché il rientro in Italia. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, Bye Bye Gingrich. Vi avevo detto poco fa, Hello Santorum, Santorum che rientra, mi ha ispirato una canzone meravigliosa che molti di voi conosceranno. Bye Bye Love, nell'interpretazione di Simon & Garfunkel, un classico degli Everly Brothers. Riconoscerete probabilmente l'umore di Gingrich soprattutto nelle prime parole. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.